brutto che l'allenatore della panchina gridi tenere palla, tenere palla, tenere palla. Ho chiesto a che cosa all'allenatore qualche parola che tutti sapessero che volesse dire tenere palla, ne abbiamo inventata una lì, ma era un esempio, non era da adottare in maniera definitiva, il contrario che tenere palla, attaccare, attaccare, attaccare. Attaccare! Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Siamo la coppia più bella del mondo e ci dispiace per gli altri. Ho visto i suoi tempi di applicazione al lavoro e penso di poter dire che ci ha annunciato che sarà a Milanello dalla mattina presto fino alla sera tardi. E quindi credo che sia, d'altronde per arrivare a dei bei risultati in qualunque attività ci si deve impegnare a fondo e si deve arrivare a lavorare tanto, possibilmente più dei competitor. E questa è stata una filosofia che io ho adottato da sempre. Noi siamo la coppia più bella del mondo e ci dispiace per gli altri che sono tristi perché non sanno il vero amor cos'è. Allora, prima di tutto, buongiorno a tutti. Per me è sicuramente... Sì, ha già cominciato imitando il Papa, va bene. Siamo la coppia più bella del mondo. No, non ho finito ancora. Mi hai guardato e ti ho risposto. Sono tristi perché non sanno più. Facciamo auguri cordialissimi, affettuosi di buon lavoro a Sinisa, con cui ho avuto già modo di scambiare molte idee e che credo abbia tutte le caratteristiche necessarie per portare il Milan a ritornare sui livelli che gli sono consueti. Buongiorno a tutti, Giorgio De Luca è il nostro autore, siamo a Expo anche oggi e saremo qui anche domenica, Expo Cibus Italia, veniteci a trovare, passate di qui, vi diamo magliette di Radio 24, vi ospitiamo, vi facciamo parlare, quello che volete, Michele Previato in regia qui, Margherita Aina si sta facendo la redazione, Milan Day, ciao Pierluigi Pardo. Ciao, ciao, Milan Day e Inter Day oggi pomeriggio, chiaramente noi parliamo più di Milan Day oggi perché ha parlato di mattinata, però insomma direi che non ci siamo annoiati stamattina. Milano Day. Mi fai fare 30 secondi per dirti, poi sarà anche Renga, io invece sono a Perugia perché qui c'è il, sì, sì, lo so, il lo football so. Fest. Adesso Ricci Riccini, in 30 secondi, su Radio 24 spieghiamo cos'è il football fest. Eccomi, sono Riccini Ricci. E organizziamo qua una serie di incontri con chi racconta il calcio per capirne qualcosa di più. Non saranno, oggi ci abbiamo Frecciare e Pardo, quindi insomma, come dire, andiamo sull'intelligenza spinta, molto spinta, ma ci abbiamo anche i vari condò della Gazzetta dello Sport, c'è Bocca di Repubblica, ma anche giocatori come Schillaccio. Questa sera insomma un confronto tra Massandrea e Frusso e Sabatini, quindi si parlerà sicuramente, penso, supponiamo, di Roma. E poi si gioca, qui si sta in giro per la città, ci sono dei biliardi con cui si può giocare con delle nove buche, con delle palle, si sale sopra e si gioca, i biliardini, PlayStation, insomma, boh, ci divertiamo, Stefano. Divertire sicuro, capito? Eccoci qua. Hai capito? Bella vita che fai tu, bella vita che fai, Pardo. Poi alla fine il concetto è sempre questo, concetto ormai da qualche anno, la tendenza è sempre più forte, fare iniziative che portino il calcio al centro come fenomeno culturale, però è bellissima. Quindi io sono qui invitato, ma sono uno sponsor ideale di questa cosa bellissima e di tante altre che ne stanno nascendo. Chiuso la parete. Poi ne parliamo. Roberto Renga, parleremo con lui di questo, parleremo con lui dello strano mercato della Roma, ma intanto c'è il Milan. Berlusconi non si è fatto mancare anche oggi la frase, poi la sentiremo. questa squadra ha le caratteristiche per vincere lo scudetto. Chi ci crede ce lo dica. 800240024, è arrivato anche Luisa Adriano insieme a Bacca. Poi c'è un'altra battuta che ha lasciato grande curiosità ai tifosi del Milan, quando il presidente ha detto: consegno a Sinisa una rosa di 30 giocatori, adesso abbiamo una rosa di 30 giocatori, gliene consegnerò una di 31 ed è il mistero del 31esimo cavaliere. Ibrahimovic. Boh. Beh, io sai, tutta la settimana che parliamo di Ibra, per me Ibra non soltanto al Milan, ma è il giocatore che fa la differenza. Quindi, ma me, con tutto il rispetto per Luis Adriano, dico, se, Bacca, se viene al Milan. Se torna in Italia, torna al Milan. Sì e no. Io penso che venga e penso che verrà al Milan. Credo che il Milan abbia dei rapporti privilegiati. Però credo che Ibra si sia stancato della Francia, voglia tornare in Italia. E sì, secondo me Roma e Napoli sono due posti che potrebbero anche intrigarlo. Certo, il Milan è avanti, il Milan se decide di prenderlo lo prende. Roma e Napoli dovrebbero pensarci, sopportare un ingaggio che poi creerebbe un effetto a catena, però certo, si vive di presente, non soltanto di progetti, altrimenti poi sono queste società che fanno tanto, costruiscono negli anni, passo alla volta, e poi quando sembra, come la Roma l'anno scorso, un passo dal traguardo, fanno il passo indietro. E invece sì, Ibra sì, è uno che da solo, con il solo acquisto, secondo me ti regala degli anni ancora più sì, sì, grandi. Allora, fermiamoci per il traffico, poi torniamo insieme a 800240024. Abbiamo ovviamente anche un sacco di ospiti, ma aspettiamo soprattutto voi, le vostre telefonate, così Pardo è contento. Io credo che adesso per noi l'imperativo categorico sia di tornare assolutamente già dal prossimo anno in Coppa dei Campioni, in Europa. Questo è fondamentale. Tutti convocati. Convocati. Su Ibrahimovic, se Ibrahimovic ci viene ce lo pigliamo, no? Se fosse possibile, perché effettivamente è un grande e credo che farebbe comodo a qualunque squadra. Secondo me questo Milan che consegniamo al signor Mihajlovic e con l'apporto dello stesso signor Mihajlovic può avere assolutamente le caratteristiche, le qualità per poter competere con la Juventus per il primo posto in campionato. Questo di nuovo Silvio Berlusconi. Dunque, adesso ho il piacere di avere come ospite una persona che cui voglio molto bene, lo dichiaro pubblicamente. Filippo Galli, ciao. Ciao Phil, responsabile del settore giovanile del Milan, lo prendiamo in direzione Cortina, se non sbaglio, per il Milan Junior Camp, ho detto giusto? Sì, esatto, Phil? Esatto, esattamente. Mi dici che aria c'è in questo momento al Milan, all'interno del Milan? Ma come dire, frizzante, insomma, ecco, chiaramente i colpi di mercato degli ultimi giorni hanno dato un nuovo smalto, euforia, insomma, credo un po' a tutto l'ambiente, no? Dopo quello che era accaduto all'inizio, adesso c'è di nuovo tanta fiducia, tanta voglia di ritornare ai vertici e quindi siamo tutti, io parlo non tanto come responsabile del settore giovanile, ma anche come tifoso, come rossonero da sempre, insomma. C'è un impegno molto profondo sulla prima squadra, sono tornati dei soldi da spendere, però sappiamo, ce l'hai raccontato molte volte, che da anni il Milan sta lavorando a fondo anche sul settore giovanile, ci sono nuove risorse anche lì, cambiano i progetti, crescono i progetti. Ma dunque, risorse, noi abbiamo fatto, la società ha deciso di fare una scelta ben precisa, di non investire più, chiedo scusa, di non investire più su ragazzi, diciamo, oltre i 15 anni, quindi noi i nostri investimenti andiamo a formare le squadre dei giovanissimi nazionali per poi per poi diciamo cercare di creare un'identità e un senso di appartenenza in questi ragazzi, oltre che a dare ovviamente un percorso di formazione ben preciso. Ecco, questo è l'intento del club, è un progetto che necessita tempo, diciamo che il prossimo sarà il terzo anno in cui questo modello Mina, di cui magari ogni tanto qualcuno sente parlare, verrà presentato e verrà implementato ancora sul settore giovanile. Ecco, ripeto, io credo che quello che si sia perduto negli anni quando si parlava di senso di appartenenza e di identità Milan si sia un po' perso, no? Anche perché hanno smesso di giocare giocatori che hanno fatto la storia di questo club, e quindi è necessario anche da questo punto di vista ricreare un certo tipo di ambiente. Adesso arriva un grande allenatore con grande esperienza come Mihajlovic, e io l'ho definito un condottiero perché mi sembra una persona giusta davvero per raccogliere tutti quei giocatori che gli sono stati messi a disposizione e diciamo dargli l'indirizzo giusto, la strada giusta, mostrare come davvero il Milan possa tornare forte e vincente. Pierluigi, cosa ne pensi? Penso che sia tutto vero, penso che il Milan in questi anni ha vissuto fasi di alti e bassi proprio economici, di impegno. Raramente, guarda, io lo dico sinceramente, raramente io ho visto un Milan che investiva con un Berlusconi molto impegnato nel calcio e che poi non trovava risultati. Ci sono state delle oscillazioni dovute al maggiore o minore interesse in quel momento, al maggiore o minore focus economico, e non soltanto economico, anche dal punto di vista proprio dell'interesse, perché Berlusconi lo sappiamo, insomma, è un uomo dalle mille attività, dalla politica all'imprenditoria, dalla televisione al calcio, e quindi ha avuto secondo me varie fasi, ma legittimamente insomma fa parte della vita di tutti. Nei momenti in cui ha voluto investire quasi sempre i risultati li ha ottenuti, e il risultato complessivo, se nel calcio si stesse un po' di memoria, è unico, nel senso che, come ripetevamo spesso l'anno scorso di fronte allo sfracello del Milan, insomma, tifoso, nessuno ha goduto in Italia negli ultimi 30 anni come un tifoso del Milan, sì, questo sicuro, non c'è discussione. Sicuro, quelli della Juve si stanno rifacendo sotto, quelli dell'Inter hanno avuto il loro periodo, la Roma ha vinto qualcosa, il Napoli ha vinto qualcosa, la Lazio, però insomma, se guardiamo gli ultimi 30 anni nessuno ha goduto come tifosi del Milan. Mi certo. Sembra che adesso, non so, è se anche vero, no, quando cadi dall'alto, quando cadi dall'alto, sì, ti fai più male. Ma poi soprattutto il calcio, appunto, è materia liquida, per cui ci si dimentica della settimana prima, figuriamoci 5 anni prima o di 10 anni prima, ci si dimentica di tutto. In questo momento ci sono i soldi, questo è oggettivo. Sì. Poi parliamo con Belinazzo, Doyen, B, Lucas, fate come vi pare. Il dato oggettivo, anche il giorno dopo il grande rifiuto del sabato scorso, era che il Milan quest'anno ha i soldi e li spende. E si è capito subito dalla velocità con la quale Gagliani è cominciato a prendere gli aerei, perché non è che prende gli aerei a cazzo. Per cui sì, è un grande progetto. Certo. Io sono convinto che Ibra serva. Poi, sì, poi secondo me, ripeto, serve ancora di più ad altre squadre italiane, però quando Berlusconi dice quelle cose, le ha detto anche Di Assisi l'altro giorno, secondo me ha ragione. Ibra sì. È comunque un giocatore che ti appiana molta della distanza che c'è, chiaro, ancora chiaro. Grossa che c'è ancora con gli altri, e ti, grosso modo, ti consente di raggiungere quasi da solo quell'obiettivo che Berlusconi ha realisticamente prefigurato la Champions League, che si è detto questa rosa ha le qualità per vincere lo scudetto. Furio Fedele, buongiorno. Buongiorno a voi, eccomi. Hai una domanda per Filippo Galli? No, lo conosco talmente tanto bene, l'ho visto anche stamattina, l'ho visto in grande forma, l'ho visto nel management che conta di casa Milan, è quello che secondo me è l'uomo giusto, anche lui al posto giusto, perché rappresenta quell'anima rossonera che si era un po' persa. Lui è sempre rimasto, ha avuto l'umiltà e la forza di restare in una grande società, essendo stato un grande giocatore e soprattutto essendo un grande tecnico. Domande non ne ho, piuttosto vorrei fare una considerazione riallacciandomi a quello che ha detto Pierluigi Pardo. Mihajlovic è l'allenatore giusto al posto giusto per ridare orgoglio, dignità, disciplina ed educazione a un gruppo che negli ultimi due anni aveva perso un po' la bussola, tra parentesi anche colpevolmente, lasciandosi comunque cullare da un oblio che era assolutamente evitabile in campo. Mihajlovic ha garantito ad esempio che i giocatori a Milanello faranno almeno due pasti, e questo vuol dire colazione, pranzo o forse anche pranzo e cena. Sarebbe meglio anche che iniziassero a lavorare almeno 8 ore al giorno, come fanno gli operai, come fanno molti lavoratori dipendenti che guadagnano un millesimo più di quello che guadagnano loro. Mihajlovic è sulla strada giusta, ovviamente parole oggi ne abbiamo sentite tante, anche molto belle, adesso toccano i fatti, però Mihajlovic almeno riporterà ordine e disciplina a Milanello, e sono, è già una bella partenza al di là dei risultati. Sì, questa Carlo, scusa, in 5 secondi è anche un'altra cosa molto berlusconiana. Cioè Berlusconi, Filippo e Furio lo potranno confermare, in queste sue oscillazioni di impegno e di focus sul Milan si è fatto giustamente, legittimamente molto condizionato dagli allenatori. Quando ha avuto degli allenatori, adesso chiaramente ci sono i soldi, quindi questo è l'elemento fondamentale, però se lo vede c'è anche la voglia. Quando lui ha degli allenatori che gli piacciono, no? Dei quali sfida, gli mette a disposizione le risorse migliori. In altri momenti magari ha avuto gli allenatori che gli piacevano un po' meno, nei quali credeva un po' meno, che l'hanno un po' disamorato e un po', sì, diciamo, defocalizzato dal Milan e dai grandi investimenti. Sì, cosa che è successa anche all'Inter con Moratti e con gli allenatori che non gli andavano giù. Un'ultima cosa per Filippo Galli. Phil, ci sono due nomi che sono uomini mercato in questo momento, che costano un sacco di soldi, e sono Darmian e Saponara, mi sa che li conosci. Sì, in particolare Matteo Darmian è stato un giocatore della primavera del Milan, quando io allenavo la primavera, è un giocatore importante che si è, diciamo così, fatto spazio ed esperienza lontano da noi, è un ragazzo straordinario, oltre appunto a essere un giocatore che ha raggiunto la nazionale, quindi gli auguro ogni bene, però voglio dire, io, abbiamo già detto tante volte, no? Allora erano altri momenti, altri tempi, non c'era la possibilità di aspettare i ragazzi, e quindi uscivano, sì, e facevano un loro percorso, per cui direi va bene così. Vorrei riagganciarmi al fatto del modo di lavorare, dell'essere presenti sempre al campo, all'allenamento. Ecco, nel settore giovanile ormai da 2 anni, dalla primavera a partire fino ad arrivare ai 2003, per capirci, quindi ai giovanissimi regionali, i nostri allenatori, abbiamo voluto che così il modello fosse simile a quello dei migliori settori giovanili europei, quindi alle 10 arrivano al campo, negli uffici, si fa videoanalisi, si lavora tutti assieme, proprio perché appunto non è solo il campo, ma è tutto quello che c'è fuori, tutto il contorno, certo, che è altrettanto, certo, importante. Certo. Certo, non ho dubbi. Grazie Filippo, buon viaggio, buon grazie lavoro. A voi, ciao, a presto. Tutti, ciao Phil. Ciao Pablo, ciao a tutti, ciao Filippo Galli. No, io ho ancora una domanda per Furio Fedele. Sì. Furio, il 31esimo giocatore che ha annunciato Berlusconi, chi è? Ibrahimovic. Anche perché sì, e poi comunque non saranno 31, ma dovranno restare 25, quindi c'è un overbooking di almeno 6, sì, elementi. Ma Sinisa lo vorrebbe Sinisa? Sì, penso di sì, ma Zai ha voluto le riconferme di De Jong e Mercedes, non sono due cadetti di Oxford, in particolar modo Mercedes è un po' dottor Jekyll e Mr. Hyde dal punto di vista caratteriale, ma insomma sicuramente hanno gli attributi che non sono quelli di un criceto, nel senso che è gente forte, è gente che ha coraggio, è gente che ha un forte carattere, e soprattutto potrebbero essere di grande aiuto agli italiani, insomma questo filone italiano, si parla tanto di Made in Italy, però questi ragazzi a me non è che piacciono molto in generale dal punto di vista caratteriale, pensano più ai selfie, ai tatuaggi, alle spatole, a tante cose, e non parlo certo né per invidia di età né perché non ho più capelli, anche se me li taglio tutti, ma ti posso garantire che insomma la vita, non penso solo il calcio, è fatta di abbellimenti o sì, di queste stupidaggini, per usare un eufemismo. Io penso che Ibrahimovic, sono d'accordo con Pierluigi, ci deve essere. Come possa giocare insieme a Luis Adriano e a Bacca, io onestamente non saprei. Difficile. Però tutti e tre insieme, se partono contro una squadra insomma di media bassa classifica, nella prima mezz'ora possono fare disastri. Ecco, penso a San Siro, penso che possa essere questa un po' la chiave, demolire squadre arcigne, come si diceva un tempo, e soprattutto capaci di difendersi e magari di strappare lo 0-0 o l'1-1 quando riescono a pareggiare. Sarà un bel Milan, mi piace, l'aria oggi era quella giusta, quella buona, Mihajlovic ha parlato bene, soprattutto ha parlato più che da condottiero, oltre che da condottiero anche da uomo e da allenatore di ottimo senso. Grazie Furio, a presto. A voi, a buon lavoro. Pier, stai lì, abbiamo traffico, torniamo subito con gli ascoltatori. 800 24 00 24, chiamate, dite se vi piace questo Milan, se vi piacciono delle altre squadre, come giudicate il mercato della Roma, insomma raccontateci la vostra vita, quello che volete, siamo qui. È possibile creare una catena di ristoranti di Italian Food con il marchio del Milan. Poi ho già accennato le scuole Milan diffuse su tutto il territorio e altre utilizzazioni ancora. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Si ricomincia. Tutti convocati. Pierluigi. Pier. Eccolo. Mi manchi Expo, eh? Lo so, com'è lì la situazione? Mamma è arrivata? Oggi arriva, eh? Arriva? Aspetta, signora Fausta, ma passa? Bene, l'aspetto qui. Bene il Turkmenistan e cercare il Portogallo che non c'è. 30.9 nello studio che conosci bene. Quindi in crescita, perché quando ti posso salutare? Ascolta, parliamo con gli ascoltatori. Gianfranco da Verona, Pierangelo da Pisa, 800 24 00 24, poi sentiamo Roberto Renga. Un dubbio, prima Furio Fedele ha parlato di un attacco con tutti e tre i punteros, no? Due già presi, Bacca, Luis Adriano, e il terzo che rimane al momento un sogno. Mi sembra tanta roba, a centrocampo ce ne vogliono 14 e poi soprattutto Ibra è uno che ha bisogno di spazio intorno a sé, ha bruciato più punte lui di Zamparini. Bacca è un grande faticatore, sai che mi piace Bacca, è un giocatore secondo me che al di là dei gol, all'Eto'o come spirito, come atteggiamento, sì, nel senso che vabbè, sai la famosa frase di Eto'o, insomma, devo correre come un nero per vivere come un bianco, e ci sono stati momenti che ha fatto proprio della sua grande generosità un tratto caratteristico. Penso al triplete del 2010 dell'Inter, è stato un esempio di disponibilità incredibile. No, Bacca ha queste caratteristiche, è un attaccante che serve anche quando non segna, anche quando non tira, che fa tanto movimento per la squadra, che partecipa, quindi da questo punto di vista secondo me può dare una mano. Certo, quei tre schierati di PM soltanto, ecco, magari in casa contro l'ultima in classifica, sì. Però Ibra, te l'ho detto, Ibra è uno spariglio, cioè Ibra cambia tutto secondo me, non è un caso che abbia vinto così tanti campionati e non abbia vinto la Champions, probabilmente a livello di, a parte che la Champions è legata anche un po' di più alla casualità, ma è uno che su 38 partite in 25-30 partite ti fa qualcosa di importante, quindi sì, certo, è proprio statisticamente un giocatore, fisicamente, statisticamente un giocatore troppo importante, troppo decisivo per quella dimensione calcistica, però prima lo era, adesso magari è chiaro, l'età, gli anni passano, 34 ottobre, insomma. Però a giudicare dagli exit poll francesi mi sembra che la storia non sia cambiata di molto, tanto anche lì ha bruciato Cavani sull'altare del suo egocentrismo calcistico, diciamo. Assolutamente così. Ma insomma Ibra è un amante, dai, Ibra, scritto Ibra è un amante, non gli puoi chiedere la fedeltà. Bravo, mi piace. Mi sa che l'avevo detto anch'io una volta. Forse mai copiato. Ibra è un amante. Ibra è un amante, quando bacia una maglietta è un bacio. Però intanto godi, ti fa godere, per questo. T'ho detto, non è un mio pallino. Per me sarebbe l'ideale per delle piazze, cioè al Milan fa comodo. Alla Roma o al Napoli sarebbe un respiro secondo me enorme, incredibile. La Juve non ne ha bisogno, la Juve è una macchina perfetta, non deve essere secondo me cambiata più di tanto. Troppo condizionante per una squadra dei meccanismi perfetti come la Juventus. Sentiamo Marotta sul mercato della Juventus e poi parliamo con Gianfranco e Pierangelo. Non intendiamo cedere quei giocatori che fanno parte di questo gruppo e che sono elementi fondamentali per la crescita. E quindi, ripeto, una cosa è raccogliere manifestazioni di interesse da parte di taluni club, una cosa è aprire una trattativa. Se ci sono delle opportunità le coglieremo per incrementare il valore, se non ci saranno delle opportunità assolutamente non lo faremo. Quindi, se volete Pogba o magari Vidal, venite con una valigia, un baule pieno di soldi. Gianfranco, Verona, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Allora volevo dire, non è che io sia amaro del calcio e così via, però volevo far capire a chi magari si intende un po' di calcio oppure può affacciarsi adesso, così via. Cioè, più una squadra, io sono convinto che la cosa fondamentale, prima di tutto, è quella di avere un portiere. È fondamentale, il numero uno, se non si ha la parata, ragazzi, inutile che diamo a segnare 10 gol, se ce ne fanno 11 è difficile. Un portiere, un buon difensore che possa dominare la difesa, e poi ci vuole il centrocampo. Un giocatore che prenda la palla, come si faceva una volta, che il calcio non è cambiato, e la porti avanti. Dopo, che ci sia Ibrahimovic, che ci sia qualsiasi altro giocatore, segna, la butta dentro, perché no, se ne arriva. Guardi, secondo me lei ha ragione, la famosa spina dorsale, no? Lo portiere. Dica la Roma di quest'anno, che a febbraio, da febbraio a marzo, sta impantanata, non segnava più nessuno. Secondo me no, cioè secondo me è giusto il portiere, cioè serve tutto, certo. La verità, ma che la spina tutto. Dorsale è portiere, difensore centrale, però, centrocampista e centravanti, perché nel calcio se non fai gol non vai da nessuna parte, eh. Anzi, diciamo che in pochi altri sport secondo me l'elemento, proprio perché è uno sport di episodi il calcio, perché le partite non finiscono 86 a 78 come nel basket o 3-7 a 2 in 2 ore e mezza nel volley. Il calcio è uno sport di episodi, è uno sport dove in una partita singola può succedere che la squadra migliore perda, può succedere. Anche se l'assioma è che quelli che vincono sono quelli che ne prendono pochi, però mai come in questo calcio è fondamentale avere il giocatore magari dall'unico colpo che ti risolve la partita, non ce ne sono tanti. No, Pierangelo Pisa. Scusa, in ogni reparto servono giocatori, servono i fuori classe, ma è talmente banale dirlo, per cui certamente servono quelli come Ibra o quelli come Higuain o quelli come Tevez, e dietro servono quelli come Handanovic o come Bon. Cioè, è ovvio che però è talmente lapalissiano che passerei a Pierangelo. Pierangelo, buongiorno. Sì, buongiorno. Io a proposito di Marino ci mi volevo riferire al passato recente, nel senso che quando abbiamo vinto il campionato con Allegri si fece espulso Ibrahimovic per 3-4 giornate nel finale del campionato, che era molto, eravamo in lotta, e vincemmo uguale. L'anno dopo si fece male Thiago Silva per una scelta, diciamo, data di Allegri, e con Ibrahimovic lo si perse il campionato. Quindi voglio dire, eravamo 5 punti avanti e c'era Ibrahimovic. È anche l'unico che ha perso, credo, nelle ultime 14 stagioni, una cosa del genere. Adesso non ho i conti sotto mano, ma è stato l'unico campionato che ha perso da quando giocava nell'Ajax da ragazzino fino ad oggi. Dal 2004 ad oggi ha perso solo quel campionato lì. Ovviamente ci sono i 2 anni di calciopoli che sono stati tolti, però comunque la Juve in campo il campionato l'aveva vinto, questo non c'è discussione. L'anno in cui l'ha perso è l'anno del famoso gol di Muntari, è l'anno di una serie di problemi incredibili nel Milan. Ricorderete il problema strano di Gattuso che si fermò, Cassano col problema al cuore. Ibra sicuramente in quella stagione lì ci ha messo del suo, perché beccò quelle giornate di squalifica in primavera, però insomma per me rimane una realtà. Io ho visto, commentato tante volte, Ibra in Italia, alla Juve, all'Inter e al Milan. È un giocatore dominante dal punto di vista fisico, per quello che è il livello e il modo che c'è di giocare in Italia. Ibra è stato un giocatore dominante, decisivo, come forse bestemmio, forse manca la controprova, ma forse sul livello di Messi o di Cristiano Ronaldo, che sono più forti di lui. Però per quello che è la dimensione del campionato italiano, Ibra ha fatto delle cose che secondo me sono pazzesche. Ma sono d'accordo, per la capacità di essere decisivo, per la capacità di essere decisivo, l'hai ricordato prima, in molte situazioni, sia per il gol, sia per l'assist, sia per il fatto che tiene impegnato da solo tutta la difesa e li fa diventare pazzi. Sono d'accordo con te, cioè il livello di incidenza di Ibrahimovic in una squadra è paragonabile a quella di Messi e di Cristiano Ronaldo, non stiamo stemmiando in chiesa. No, la differenza la fanno le grandi partite. Beh, questo e è chiaro. In qualche modo la fa la Champions, ma sappiamo benissimo che la storia del calcio alla fine è appesa anche alle nelle stelle. Grandi competizioni alle stelle, cioè alle stelle, Germania-Argentina, Messi perde il mondiale, quindi forse non entrerà, diciamo, ci sarà chi gli ricorderà per tutta la vita che non è stato decisivo come Maradona, anche perché Higuain sullo 0-0 si mangia un gol incredibile. Cristiano Ronaldo vince il pallone d'oro e la Champions League nella notte di Mosca contro il Chelsea, perché John Terry con rigore decisivo scivola su una zolla e cambia, certo. E lui aveva sbagliato il suo calcio di rigore, quindi se Terry avesse segnato quel rigore, e non è che Cristiano Ronaldo ha avuto un merito nel farglielo sbagliare, non ha fatto niente, semplicemente si è messo lì, ha pregato, Terry ha sbagliato il rigore e lui, da eroe negativo che aveva sbagliato il rigore nello shootout, è diventato giustamente il leader della squadra che ha vinto la Champions. Quindi la differenza this la fanno pure football. Queste cose qui, no? This is football. Traffico, poi abbiamo un ospite. È sicuro? 100%? Tutti convocati. Tutti convocati. Roberto Renga, buongiorno, come sta? Buongiorno a tutti. Buongiorno, maestro di cerimonie questa sera a Perugia, mi dice che succede? Succede di tutto, che Perugia per quattro giorni, da ieri, la manifestazione è cominciata ieri, sarà la capitale del calcio italiano, ma di un calcio un po' particolare, non faremo polemiche, racconteremo storie, e quindi ci saranno molti giornalisti, ci saranno ex giocatori, allenatori, oggi per esempio è una giornata pienissima, e si va avanti da qui sino a domenica, è il primo esperimento del genere e finora le cose vanno molto bene, quindi sì. Sono molto contento, a parte il caldo. E come sapete oggi tocca anche, ho sentito la voce, a Pierluigi Pardo, che adesso sta a 500 metri da me, quindi risale al fresco. Io sono in albergo ancora, perché vado a prendere Rossella Sensi tra poco. Ah ok, io ho trovato un angolo qui, io non li porto all'angolo della piazza, c'è una corrente spettacolare, ho trovato veramente il punto G. Perugia è una delle città più belle d'Italia, però oggi insomma è calda pure Perugia, no, devo dire che è veramente bellissimo, un po' perché Perugia già dal Festival di Giornalismo in poi ormai ha questa particolare, diciamo, predisposizione ai festival, agli eventi, ma c'è un Vergenz, Roberto è di casa qui, ed è insomma, bellissimo venirci, un po' come vabbè, tutte le città nelle quali non ci capiti per caso, no? Perché c'è questa bellezza anche di essere un po' isolata fuori dal circuito autostradale, sulla E45, ma ci si torna sempre molto volentieri, e devo dire che è una cosa molto bella, io sono felice quando nascono queste iniziative, perché credo che da qualche anno in Inghilterra, da Nick Corby in poi, quindi dal 1995 in poi, dal febbraio 90, che ha cambiato la storia della letteratura calcistica europea, ma insomma in Italia negli ultimi anni mi sembra che ci sia sempre più fierezza, cioè il calcio venga visto non soltanto come cronaca, ma sempre di più come un fenomeno culturale. Qualche anno fa forse c'era si girava quasi con un senso di fastidio da parte di molti intellettuali nei confronti del calcio, invece mi sembra che oggi non sia così, cioè oggi tutti, dai capi di Stato a tutti sono intrigati da questo gioco, non c'è nessuno che non ha un'opinione su questo gioco, è una forza planetaria, e quindi parlarne in maniera appassionata credo che sia una grande opportunità. D'altra parte, come in Sud America succede ormai da molti anni, ci sono diversi capolavori a sfondo calcistico, voi lo sapete meglio di me. Posso consigliare De Giovanni? Faccio un momento il libro di Maurizio De Giovanni, che, sì, che ha letto anche mia moglie, è impazzita, forse mi devo preoccupare sulle condizioni ormai di mia moglie che legge i libri di calcio, è un libro sul Napoli, ma non parla del Napoli dal punto di vista tecnico, parla di questo professore che fa una specie di reportage sulla follia del tipo, ed è ambientato a Napoli, ovviamente la città di De Giovanni, ed è un capolavoro assoluto, poi va anche molto bene come vendito, ma è veramente un capolavoro, secondo me è veramente il febbraio 90 italiano, e racconta la follia assurda del tipo con una... Io penso che anche il tifoso, qual è la squadra rivale del Napoli? Non lo so, scegliete da voi, più accanito di superstare del Napoli, a un certo punto prova un senso di simpatia e di rispetto, perché poi i tifosi alla fine sono tutti uguali, non cambia solo la squadra per la quale si fa il tifo, ma la follia è assolutamente, la follia in senso positivo è assolutamente la stessa. Roberto, andando sul prosaico, mi spieghi lo strano non mercato della Roma? Gervinho, destro, giocatori con l'elastico, Dumbia, giocatori con l'elastico attaccato alla maglietta, ma sai, vanno, tornano. Il problema è che è che, come sappiamo, è stato sbagliato il mercato dell'anno scorso, per cui adesso ti trovi con dei giocatori in sovrannumero che devi piazzare, ma che non è facilissimo sistemare. E io ho letto stamattina un giornale che ha detto sono le zavorre. In realtà io non la penso così, io penso che i giocatori sono stati cercati, hanno firmato un contratto regolarmente, e se firmano un contratto per 3 anni poi possono dire magari voglio rimanere per 3 anni qui, ma avete cercato voi in fin dei conti. E questo può essere un problema, ma non tanto per questi giocatori in sovrannumero. La mia preoccupazione in chiave Roma, ovviamente, è che poi se ne vadano invece i talenti di casa. Io sono uno fissato, per esempio, la Roma con i giocatori cresciuti nella Roma, la Lazio, così, il Perugia, eccetera, eccetera, così via. E andare via Bertolacci per me è stato un dolore, io me lo ricordo quando erano i giovanissimi ed era già un talento. E quando poi leggo che ci sono giocatori con il malessere, eccetera, eccetera, perché i cronisti poi riprendono quello che dicono le società, e penso che possa andare via anche Romagnoli, che potrebbe rappresentare il futuro della Roma per i prossimi 15 anni, mi preoccupo. Ecco che allora faccio il tipo, perché magari la Roma i soldi li possa trovare con Dubbia, con Gervinho e con altri. Sì, cosa che fino adesso non è accaduta. Stasera qui c'è Sabatini, insomma, ecco, io credo che Sabatini in questi anni abbia fatto cose eccezionali, non va dimenticato, ha fatto dei colpi incredibili, da Marquinhos alla Mela a Benatia a Bradley, del quale si parla poco perché la cifra, però insomma lui l'ha venduto in America a 8 milioni e mezzo, un giocatore che in Italia non avrebbe mai più avuto mercato, cioè ha fatto dei capolavori soprattutto in uscita straordinari. Nell'ultima sessione di mercato ha fatto degli errori, ma lo fa anche lui secondo me, e oggi la Roma paga ancora un po' quegli errori lì, che Dubbia sì ha mercato, ma c'era sicuramente meno rispetto a 5 mesi fa. La vicenda destro comunque non è una vicenda che è andata bene, che è andata per il verso giusto, c'è stato un carico dal punto di vista economico di tutta la vicenda di Parvo, di Folli, sono stati fatti degli errori, dopo una serie di cose fatte molto bene ci sono stati degli errori, e quindi la Roma in questa sessione secondo me paga un po' di questo impasto. Sì, sai, in fine con Sabatini questa sera ci sarà anche Valerio Mastandrea e Roberto Pruzzo, quindi Pierluigi, cioè, processo per direttissima, ragazzi, processo per direttissima Sabatini, mi devo preoccupare, mando gli avvocati. No, sarà una serata completamente diversa, non ci saranno processi di nessun tipo e ognuno racconterà quello che vuole. Non mando gli avvocati. Tifosissimo della Roma, Roberto Pruzzo. Lo so, no, ma è un festival molto particolare. È per questo che dico. È per questo che ragazzi, dico, poi abbiamo Pierluigi Pardo. Avessi detto, però Freccero, con Freccero, con Zampini. Fallo cantare, Roberto, fallo cantare. Lo farò cantare. Questa è un'idea. Fai cantare Pardo. Fai cantare Pardo. Io sentivo prima che parlava di Ibrahimovic, no? E dicevo sì. Ibrahimovic è il Pardo del calcio. Vabbè, basta, basta. Mi è piaciuta, te la puoi rivendere? Grazie, la metto come suoneria. Basta, ragazzi, ciao. ciao Pier. Sentiamo domani. Buona giornata. Ciao Roberto Rega, divertitevi lì a Perugia. Se siete in zona, fateci un salto, sarà da divertirsi. Ragazzi, GR, poi torniamo 800240024, parliamo ancora di calcio e di molto altro. Finisce qua, senza recupero, primo tempo. Gran spettacolo. Tutti convocati. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Radio 24 e il Sole 24 Ore aprono un'ulteriore finestra sul mondo dell'attualità economico-finanziaria nel primo editoriale multimediale di informazione, in onda da lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Radio 24. La passione si sente. C'è la belva delle favole e c'è la belva della realtà. Dobbiamo imparare a farci i conti con questa belva, a misurarla e a controllarla. Insieme a voi, facendovi parlare, facendovi ascoltare, facendovi anche arrabbiare, provocandovi. I conti della belva con Carlo Alberto Carnevale Maffè e Oscar Giannino, tutti i sabati dalle 10 alle 12 su Radio 24, i conti della belva. Il segnale orario vi è offerto da Soul, punto di riferimento per valorizzare il tuo investimento fotovoltaico. Vieni su ottimizziamo.it. Che dire? Arrieccici. Tutti convocati. Tutti convocati, diretta da Luca Buratto esulta, diretta da Expo. Tutta la settimana qui, torneremo anche a settembre, ci saremo anche domenica questa con Capuano dalle 17 alle 19. CBUSE Italia, veniteci a trovare se potete, se ne avete voglia. Indicazione geografica, passate tra lo stand del Giappone e quello di Monaco, di Monte Carlo. Seguite la via, il corridoio, ci trovate. Posto molto bello, eccezionale. Luca Milano, buongiorno. Pronto, ciao, siamo da Milano. Allora, sì, volevo dire due cose così. Una, riprendere un attimino quello che avete detto su Ibrahimovic. Io, secondo me, voi per eleganza ci girate intorno, ma la sostanza, come ha detto anche chi ha telefonato il giornalista che parlava prima con te, è questa. Ha detto bene, può stare bene Ibrahimovic a Napoli, in quei posti lì dove può essere il stand generale della situazione, l'unico, come si dice, il punto di riferimento dell'attacco. Ma a mio avviso le squadre che vogliono programmare, vogliono vincere anche la Coppa dei Campioni, perché per me non è un caso che noi non abbia mai vinto, al di là che poi tutto si può basare in una stagione su due tiri in porta, una deviazione, sì, un rigore sbagliato, queste, ma non è un caso. Io per esempio da tifoso milanista, quando noi lo prendemmo, conoscendolo è un grande giocatore, perché chi non riconosce questo vuol dire che è in malafede. Però io subito ho pensato male, ma non per lui, perché con lui non puoi vedere determinato tipo di gioco, perché devi giocare per lui. Quindi io personalmente preferisco più un attaccante come quello che abbiamo preso, Bacca, che è un centravanti di movimenti. Io, mi piace alla Serchenko, mi piace più vedere la squadra che si muove, anche perché ormai, a mio avviso, in questo calcio del 3000, diciamo, con le velocità che si va bisogna essere tutti in movimento. Non può esistere, sì, voglio dire, Gianni Rivera non potrebbe esistere. Luca, sono d'accordo, però possiamo anche parlare di, e l'ho fatto anche, di così, di una, della necessità di un cambio di immagine del Milan, che ha preso molto spesso cavalli di ritorno negli ultimi anni, con la carta d'identità un po' ingiallita, quindi sarebbe una cosa dal punto di vista dell'immagine su quella falsariga. Però tu mi dici una squadra che deve vincere la Champions League, un attimo, cioè si va per gradi. Il Milan è arrivato undicesimo, mi pare, nell'ultima stagione. Dovesse arrivare Ibrahimovic, non è che punti allo scudetto, però ti risolve da solo, così come alla sua età 34 ti risolve diversi problemi. Poi per il resto a costruire ci pensi con calma. Ibrahimovic sarebbe una scorciatoia verso quell'obiettivo minimo o massimo, io direi massimo, realisticamente tracciato da Berlusconi, cioè bisogna provare a tornare in Champions League con questa squadra. Poi Berlusconi ha anche detto che è una squadra con le caratteristiche per vincere lo scudetto, ma questa è la solita buttad. Non è vero, non è così, la distanza dalla Juventus rimane enorme, rimane grande secondo me anche al momento la distanza da Napoli e Roma, e forse Lazio, non credo che siano molto cambiati, e Inter, credo che l'unica che abbia cambiato un po' le gerarchie in questo inizio di mercato sia stata l'Inter. Il Milan è una squadra in costruzione, ed Ibrahimovic sarebbe una scorciatoia verso quell'obiettivo. Marco, provincia di Ancona, buongiorno. Buongiorno, salve. Salve. Io volevo dire una cosa, di solito sono sempre d'accordo con Pardo, però prima mi ha detto che Sabatini ha fatto dei gran colpi qua vendendo Benatia. Secondo me quello non è stato un colpo, perché l'anno scorso la Roma con Benatia ha rischiato di vincere lo scudetto. Stanno senza Benatia, è vero che ha incassato i soldi, ma dipende uno cosa vuol fare. Senza Benatia ha fatto una difesa col triplo delle reti subite, quindi se uno vuole fare una squadra per vincere, Benatia lo deve tenere. Sì, anche però non dimentichiamo la non stagione di Castan, perché che era stato molto importante vicino a Benatia. Benatia, Marco, è stato venduto per un mucchio di soldi, se non ricordo male 31 milioni di euro, di fronte ad una valutazione così per un difensore fai fatica a dire di no. Poi ci ha aggiunto appunto i gravi problemi di Castan, che ovviamente non ha messo piede in campo in questa stagione. Manolas secondo me rimane un buon giocatore, rimane un buon prospetto. È chiaro che Benatia e Castan erano una delle coppie di centrali più forti del nostro campionato, poi il resto lo dicono i numeri, e su questo non posso darti torto. Adesso è stato ripreso Romagnoli, reduce da una grande stagione, giocatore giovane, in rampa di lancio, può essere lui il nuovo Benatia o magari anche qualcosa di più, ci auguriamo tutti anche in chiave nazionale, ma vediamo se lo vendono al miglior offerente. Allora, domenica tra le altre cose si corre in Gran Bretagna un Gran Premio di Formula 1 davvero importante dal punto di vista degli equilibri della stagione. Sentiamo cosa ha detto Rosberg, che ha vinto l'ultima corsa. È una bella fase per me adesso, ultimamente son contento e adesso devo provare a continuare questo. Partenze fulminanti, beh, importante, certo, è quello che mi ha dato la vittoria in Austria e anche lì bisogna continuare a lavorarci sopra, e perché conta, perché tra noi è così vicino che quello che entra nella prima curva per primo è già un vantaggio enorme, quasi quasi ha già vinto la gara. Questo era Nico Rosberg. Direi che le ultime gare hanno detto che ormai il duello è ridotto a loro due. La distanza con la Ferrari si è fatta notevole, la Williams si è arrivata sotto la Ferrari, che quindi non è più per assioma la seconda forza del mondiale. Magari questa gara di Silverstone ci dirà qualcosa in questo senso. Antonio Boselli da Sky, ciao, che piacere. Sì, ciao a tutti, buon pomeriggio a tutti. Ciao Antonio. Quanto costa? Ho parlato di calcio e di valutazioni, poi torno a farlo con gli ascoltatori 800 24 00 24. Quanto conta dal punto di vista strategico per gli equilibri del mondiale Silverstone? Ma diciamo che conta, perché comunque è una pista che rivela tanto del monoposto, soprattutto dell'aspetto aerodinamico, anche se poi ormai abbiamo imparato a conoscere l'importanza della Power Unit, il motore che ha debuttato l'anno scorso in Formula 1, che è una componente ibrida decisamente importante, parliamo di oltre 170-180 cavalli su una cavalleria complessiva intorno agli 800-850 cavalli. E da questo punto di vista la Mercedes è sicuramente la scuderia da battere, lo stesso non solo nelle prestazioni delle due frecce d'argento, ma anche delle squadre che montano la Power Tunic. Facendo riferimento per esempio alla Williams, considerate che nell'arco della stagione si possono utilizzare 4 Power Unit per pilota, c'è stato il cambio di tutte le scuderie motorizzate Mercedes da un paio di Gran Premio a questa parte, e c'è stato un netto miglioramento, quindi sì, sicuramente la Mercedes parte con un vantaggio notevole. Nell'inizio di questo campionato forse siamo un po' illusi con la vittoria di Sebastian Vettel alla seconda gara, sembrava un campionato dove la Ferrari avrebbe potuto recitare un ruolo da protagonista nella lotta per il titolo. In realtà i valori adesso si stanno estendendo sempre di più, è una lotta per il titolo mondiale tra Lewis Hamilton e Nico Rosberg, sono tanti comunque temi interessanti, perché appunto la lotta tra loro due, che ha ripreso con grande vivacità dopo le vittorie di Nico Rosberg, c'è comunque una Ferrari in grande ripresa, il rinnovo di contratto o forse no di Kimi Raikkonen. Questo è un punto interessante. Antonio, questo è un punto interessante, perché insomma sembra quasi che adesso per ogni gara per Kimi sia diventata un esame di maturità quasi. Se non comincia a fare risultati, e ha fatto molti errori nelle ultime corse, non è detto che la Ferrari decida di confermarlo. Si continua a parlare con insistenza di Bottas, quindi tanto tuono che piove, magari Kimi se ne va. Guarda, questo è un po' l'argomento del momento in casa Ferrari. Quello che so io, è scaduto il termine per cui la Ferrari poteva esercitare un'opzione, ma fondamentalmente non vuol dire nulla, nel senso che Kimi Raikkonen non ha altre offerte nel mercato di Formula 1, quindi in realtà è tutto nelle mani, anzi guarda, è interessante questa cosa perché la Ferrari dice che è tutto nelle mani di Raikkonen, facendo intendere che c'è una questione di prestazioni, e Raikkonen dice no, è tutto nelle mani della Ferrari, perché è la Ferrari che può, anche se è scaduto, può esercitare una prelazione, perché tanto comunque Kimi non ha mercato, non ha altre squadre che lo sì. vogliono. La realtà dei fatti è che Kimi Raikkonen è chiamato a un riscatto importante. Credo che questo weekend sia iniziato sotto una buona stella. C'è stato un sondaggio organizzato proprio dall'organizzazione dei piloti, in cui si chiedeva quale fosse il pilota più amato. Pensate che lui è risultato il pilota più amato dai tifosi che hanno risposto a questo certo, sondaggio. Sì, non faccio fatica, credo. Magari questo può aiutarlo. Non faccio fatica, credo. Un'ultima cosa, leggo di possibili modifiche regolamentari, vabbè, queste sono ormai all'ordine del giorno, se ne parla quotidianamente di modifiche regolamentari in Formula 1, però c'è questa cosa del mini gran premio del sabato che potrebbe essere intrigante. Ma come, li fanno correre due gare al prezzo di una? Ma guarda, è tutto un po' in itinere, diciamo che il grande quadro in cui si sta muovendo la Formula 1 è un quadro dove sta cercando di trovare una nuova identità, e quindi vuole probabilmente anche fare delle cose che siano un po' così di impatto. Si parla di questa gara, alcuni dicono che sia una gara sprint, quindi una gara veloce, gara sprint, stop, sì. Altri dicono che potrebbe essere una gara per i rookie, quindi per dare la possibilità ai piloti giovani delle scuderie. Insomma, si fa tanto parlare, poi in realtà c'è un vaglio abbastanza complicato in Formula 1, proposte che vengono lanciate come quella di rifornimenti, poi perdono diciamo lo slancio. Sì, un sacco di chiacchiere da vedere. Sacco di chiacchiere. Sì, esatto, anche perché poi sono tante teste che pensano, e poi alla fine decide, molto spesso decide per niente. Decide quello con la testa grigia e gli occhiali, Esatto. Decide quell'omino con i capelli grigi a caschetto, anni 70, e gli occhiali. Grazie Antonio. 5 anni è ancora lì. Lui e Blatter sono praticamente due monumenti. più che due uomini, sono ormai due monumenti. Grazie Antonio. Grazie a voi, buon pomeriggio. Ciao Antonio Boselli da Sky. Allora, era la Ferrari, adesso non c'è più, fa un'altra cosa. Luca di Montezemolo ieri proprio a Expo, qui dove noi siamo, è intervenuto e ha parlato del suo nuovo lavoro, cioè del progetto Roma 2024 Olimpiadi. Sia giusto porsi delle domande su come si intende organizzare un evento di questo genere, e quindi è giusto argomentarle queste domande con risposte argomentate. E quello che non è giusto, ma non lo vedo, è di avere un atteggiamento sempre negativo quando questo paese, che vive di export e che dovrebbe vivere ancora più di turismo, ha l'opportunità di mettersi in vetrina. Noi abbiamo delle candidati che si chiamano Boston, che si chiamano Parigi, concorrenti, che si chiamano Amburgo, quindi Francia, Germania, Inghilterra. Sarebbe assurdo che l'Italia non ci provi con tutte le forze. Questo Montezemolo sulle Olimpiadi, candidatura italiana di Roma 2024. Fabio Roma, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Dica. Grazie per la convocazione. Grazie. Volevo fare una riflessione sul confronto del mercato della Roma, Inter e Milan. E lancio questa provocazione: ma non è che il fair play finanziario stia penalizzando eccessivamente la Roma rispetto all'Inter e al Milan, che non fanno le cose? Il Milan ha un investitore nuovo e va bene, ma l'Inter, che ha avuto delle sanzioni anche superiori rispetto alla Roma, sta facendo un mercato che, secondo il mio modesto parere, non può permettersi. Fermo restando che sta facendo degli investimenti, come diciamo noi a Roma, a babbo morto, nel senso che pagherà, perché da quello che ho capito sono tutti obblighi di riscatto e comunque tutti pagherei o pagherò. Tutti, perché Condombia ha pagato tanto. La Roma chiaramente deve rispettare i parametri, perché altrimenti dopo domani ci sono gli ispettori dell'UEFA a a dire sì. quello che non va. Credo che la proprietà americana stia facendo degli sforzi incredibili per mettere i conti a posto, tant'è che Juve, Milan e Inter secondo me in questo momento sono superiori a livello di organico rispetto alla Roma. La Roma ha dei problemi di giocatori che devono essere venduti, esuberi e via dicendo, e questo sta bloccando la Roma in tutto, questo è realistico. No, ma non credo, è realistico. Cioè innanzitutto l'Inter sta facendo il mercato che grosso modo le è consentito, che grosso modo può permettersi, perché non sta andando oltre le regole. Adesso dovrà sfoltire pesantemente la rosa e avrà gli stessi problemi che sta affrontando la Roma, cioè quello di cedere giocatori in esubero, perché sai quando c'è qualcuno che ti chiede un giocatore e mi torna in mente Saponara, che è bravissimo, però con una quotazione ballava tra il Napoli e la Juventus 16 milioni di euro, quando mi viene in mente Bertolacci che è bravissimo, che la Roma ha venduto e ha venduto bene, riscattato per 8, venduto per 20, bravissimo, però è una quotazione molto elevata. Quando qualcuno te li chiede, allora è chiaro che il prezzo lo fa chi vende, e altrimenti se sono giocatori in esubero e tutti lo sanno, il prezzo lo fa chi compra, e c'è poco da star lì. Mi fa piacere salutare forse il più grande giocatore che ha vestito la maglia azzurra del rugby nella storia, Diego Dominguez. Ciao Diego, ciao, piacere. Ciao, buongiorno, ciao. Come stai? Bene, tutto bene. Mi sembra che fra con le nuove generazioni, preparando la generazione del futuro. Mi sembra che tu sia in mezzo ai ragazzini per il Mediobanca Rugby Camp. Sono per il Mediobanca Rugby Camp, sono 50 giovani di tutta Italia. È cominciato lunedì scorso, finisce oggi, adesso c'è la partita finale. Ci sono tutti i genitori qua in campo a sostenere i figli. Bellissimo, bellissimo che ti hanno lasciato qua lunedì, oggi venerdì li vedranno in campo, giocare una partita vera. Noi ci siamo divertiti molto, abbiamo messo tantissima passione, tanto cuore, quello che ci vuole per formare le nuove generazioni. Sì, Diego, ma mi dici come si comportano i genitori e le partite di rugby? Perché a me quelle poche volte che è capitato di andare a vedere una partita di calcio giovanile sono scappato piangendo per come si comportavano i genitori. Al rugby no, credo sia un po' diverso. Sì, al rugby è diverso, sostengono molto i giovani, ma non c'è nessuno, almeno io sono tantissimi anni che seguo i giovani, tantissimi anni, non mi è capitato mai di un genitore che vada oltre la riga a quei livelli che tu dici. I genitori sostengono i figli, ma non è che nessuno sta a dire qualcosa all'arbitro o a un giocatore dell'altra squadra. No, io faccio una regola abbastanza ferma e dura che tutti devono rispettarla. Diego, io ho sempre avuto l'idea che la grande attenzione mediatica che ha creato la nazionale da quando è entrata nel Sei Nazioni abbia portato come effetto molti giovani verso il rugby. Mi sbaglio dal punto di vista numerico? Certo, dal numero sì, tanti giovani nuovi, ovviamente quando ci sono delle novità, delle cose belle, tanti giovani che si avvicinano. Il problema è che questo è arrivato troppo in fretta, le strutture non erano pronte per accogliere questa quantità di giovani che sono venuti su tutti i club. Sai, quando arrivano queste quantità di giovani, sia le strutture sia gli educatori non erano pronti per ricevere questa quantità. È fondamentale che ci sia la qualità, perché sennò per formare bene i giovani serve del futuro. È un po' la conseguenza dei risultati che ancora non su tutte le categorie non riusciamo a avere. L'ultima cosa, Diego, il casino della nazionale premondiale, il tuo pensiero qual è? Cioè la grana dei premi, eccetera, qual è il tuo pensiero su questo? Mi dispiace molto, penso che la federazione queste cose doveva anticiparle, aveva il tempo sufficiente per anticipare queste cose. Penso che la federazione ha attuato con un'arroganza enorme, e questo penso che è una cosa che si doveva evitare, perché il rugby è diverso, non ho sentito nessuna nazionale al mondo che ha fatto questo. Che sia successo una cosa del genere, io penso che la federazione doveva anticipare questo, parlare da tempo, la Coppa del Mondo lo sai da 4 anni che si giocherà e certo, le cose dovevano essere chiare prima. Mi dispiace che il giocatore abbia vissuto un momento così, sono stato anch'io giocatore e mi dispiace molto che la federazione si sia portata avanti prima. Grazie Diego. Ok. Buon lavoro, grazie mille. Ciao, ciao. Grazie. Ciao, a te, ciao, ciao Diego Dominguez, grandissimo. E da Diego Dominguez ad Alessandro da Bologna poi chiudiamo. Buongiorno. Buongiorno a voi. Dica. Spero di avere più fortuna di un paio d'anni fa, di quando vi ho chiamato chiedendomi alcuni pareri sul Bologna e sulla Virtus Bologna, e alla fine uno è retrocesso e l'altro siamo arrivati per ultimo. Però... spero che quest'anno vada meglio, ma siccome il vostro amico è amico del certo Cassano, volevo aver avuto la possibilità di parlare con lui, perché a Bologna sta girando la voce anche di Cassano come nuova stella del calcio di Bologna, ma volevo sapere da voi, se, a livello generale, se in una situazione come la nostra, con disponibilità economica interessante, meno quello che dite, che legge sui giornali eccetera, e con un nuovo campionato davanti, forse di mantenimento e così via, certe figure come Cassano, come Fazzini, come giocatori che forse sono più del, non so se sono, possono dare quel plus in più a, più alla, non so, alla cosa degli abbonamenti, o forse veramente ha un discorso tecnico da fare o, per il futuro, insomma. Ecco. Beh, insomma, sono diversi come profilo Cassano e Pazzini. Io uno come Pazzini me lo prenderei subito per una squadra come il Bologna. Cassano bisogna vedere quante motivazioni ha, ma l'ambiente può essere quello giusto. Quanto al reale interessamento chiederemo a Pardo, perché come sa di Cassano Pardo conosce quasi tutto. Comunque mi sembra che per una piazza che ritorna un paio di una piazza come Bologna, un paio di stelle non farebbero male ad illuminare la torre degli asinelli, eh? Gufi! Vabbè, ci torniamo qui ragazzi. Giorgio De Luca, nostro autore, Giovanni Melchiorre in regia, Margherita Aina qui con noi insieme a Michele Previato in redazione. Buongiorno a voi. E Luca Burate, Davide Cioccio e tutta la squadra di Radio 24. Sì, anche domani, noi no, ma Radio 24 è qui in diretta anche domani. Noi sì, domenica dalle 17 alle 19 con Giovanni Capuano. Ciao a tutti. I nostri inviati scatenati. Benissimo, ancora allora molte, molte grazie e spero di avere occasione di incontrarvi con... dei traguardi raggiunti. Ciao, aiuto.